chiamavi fortuna, nata al Parco Verde, sembra proprio una bella storia. Ti han chiamato fortuna, pensa a te, ma fortunata non sei stata. Questa storia è una storia bugiarda, perché il Parco Verde tanto verde non è. È un serpente di palazzi scalcinati, steso sui veleni della camorra sotterrati. Ti chiamavi fortuna, anni sei, tuoi pomeriggi passavi giocando. Quel pianerotto condominiale, con la bambina della porta accanto. Poi arriva lui e quei brutti giochi che non vuoi far più. Così dall'ottavo piano sei volata giù. Qui al Parco Verde siamo sempre in meno a giocare. L'ultima volta al piccolo Antonio toccò di volare. Sembra che al Parco Verde, posto abbandonato dallo Stato, la vita ormai non ha più valore. Là ti puoi ammalare ancor prima di esser nato. Violentare i bambini è quasi normale. Che volete in questo posto, non c'è niente da fare. E il tempo in qualche modo lo devi pur passare. La famiglia e il vicinato penseranno a coprire. Certo in galera non ti faranno tornare. Sono stati bambini, compagni di gioco nel quartiere, finalmente a parlare. Solo loro hanno avuto il coraggio che tutti noi dovremmo avere, coraggio di testimoniare. Sempre far finta di niente, tirare a campare. E voi che avete in mano le leve del potere, per qualche tempo in questi posti dovreste abitare, per poter capire.